Rassegna Stampa Europa. Buongiorno, buon sabato e benvenuti alla Rassegna Stampa Europea da Giulia Crivelli. Tantissimi gli eventi della scorsa settimana, politici e non, politici ed economici. E quindi mi piace iniziare da quella che è stata l'elezione più commentata, forse, naturalmente commentata anche qui su Radio 24, sul Sole 24 Ore, però vediamo per esempio come è stata commentata in patria. Parliamo naturalmente delle elezioni in Austria e su Internazionale, per esempio di questa settimana, in edicola da ieri, trovate questo articolo pubblicato da Der Standard, che è un quotidiano austriaco, che si intitola "L'estrema destra sconfitta per un soffio". È proprio un'analisi e ci fa capire, le elezioni sono state ormai una settimana fa, però è interessante vedere come vengono viste. Qui si è urlato al miracolo da una parte, perché alla fine l'estrema destra appunto è stata sconfitta per un soffio, e invece che peccato dall'altra, per esempio per Matteo Salvini, ad esempio della Lega, non è stata una buona notizia quella di questa sconfitta del FPÖ, che sta per Freiheitspartei Österreich, cioè Partito della Libertà, e scrive Der Standard: "C'è mancato poco. Se Alexander Van der Bellen può insediarsi alla presidenza dell'Austria, lo deve in buona parte al suo avversario, il candidato dell'estrema destra Norbert Hofer. Al ballottaggio delle presidenziali, in molti elettori hanno votato per il candidato ecologista per evitare che un esponente appunto dell'FPÖ diventasse il capo dello Stato". Ricordiamo due cose: primo, che l'Austria non è una repubblica dove il presidente, come invece per esempio avviene in Francia, ha anche dei poteri di esecutivo, però era comunque, ha più che altro poteri rappresentativi, però sarebbe stato comunque un segnale molto forte quello di un eventuale incarico dato a un partito così di estrema, appunto di estrema destra, non di centrodestra ma proprio di estrema destra come l'FPÖ. Sull'altra questione che cerchiamo di seguire con la maggiore attenzione possibile, anche qui naturalmente ci sono arrivate questa settimana molte novità, la Grecia, parliamo della Grecia naturalmente, c'è un articolo che sempre trovate tradotto su Internazionale di Efimerida Ton Syntakton, intitolato "L'Eurogruppo trova un accordo per il salvataggio della Grecia". I ministri degli esteri dei paesi dell'euro hanno sbloccato una nuova quota di aiuti di Atene e finalmente si è parlato di ristrutturazione del debito, perché come abbiamo detto tante volte nelle settimane scorse, mentre in Grecia Tsipras cercava di fare i compiti a casa, come anche il governo italiano ha fatto per tanti anni quando Bruxelles lo chiedeva, e in un certo senso sta continuando a fare, tant'è che sappiamo, è notizia di 10 giorni fa, la concessione appunto di alcune facilitazioni sul patto di stabilità. Ebbene, appunto, mentre Tsipras faceva i compiti, cioè faceva passare in Parlamento, Tsipras, il primo ministro greco, faceva passare le ennesime misure di austerità, a quel punto da una parte è stata sbloccata questa tranche di aiuti e dall'altra si è cominciato a discutere di ristrutturazione del debito, che vuol dire condonare in qualche modo il debito gigantesco che la Grecia ha con il Fondo Monetario Internazionale e con le istituzioni europee. Passiamo a un altro tema che ci dobbiamo per forza, anche perché qui sta arrivando l'estate e come diciamo sempre è il momento in cui il corridoio del Mediterraneo diventa ancora più affollato per l'immigrazione clandestina, e quindi il Guardian si occupa appunto del tema dell'immigrazione con un articolo molto interessante che trovate su voxeurope.eu, il sito che spesso citiamo, che fa un po' lo stesso monitoraggio che facciamo noi cercando articoli interessanti di giornali europei su questioni europee, e li traduce. In questo caso viene dal Guardian e il titolo è "I cittadini sono più accoglienti dei loro governi". Secondo una recente inchiesta di Amnesty International, la maggioranza delle persone accoglierebbe i profughi, smentendo le posizioni ufficiali e le politiche di molti governi, o aggiungo io i tanti sondaggi che vengono spesso sbandierati appunto per sostenere muri, misure restrittive, maggiori autorità di polizia, eccetera. La grande maggioranza delle persone, secondo questo sondaggio, pensate l'80%, sarebbe pronta a accogliere i rifugiati a braccia aperte e molto sono disposti ad accoglierli a casa loro. Certo, qualcuno mi sentirei già di, se ne parlassi con Salvini, sono sicura che risponderebbe: ah, ma è un sondaggio di Amnesty International, oddio, non solo Salvini, probabilmente è un sondaggio di Amnesty International, quindi è di parte. Questa idea dei sondaggi di parte, tra l'altro, la sento dire sempre più spesso ed è abbastanza aberrante, perché un sondaggio è un sondaggio, poi o ci fidiamo dei sondaggisti o non ci fidiamo. In ogni caso, questo Refugees Welcome Index, l'indice sull'accoglienza dei rifugiati, si basa appunto su un sondaggio compiuto su oltre 27.000 persone, che vi assicuro che per un sondaggio sono tantissime, in 27 paesi. Secondo questo sondaggio sono i cinesi già qui, i cinesi sia in Europa che a casa loro, i più accoglienti per i rifugiati. Seguono britannici e tedeschi. Spagnoli e greci fanno parte dei primi 10, mentre i russi chiudono la classifica. Passiamo a un altro argomento che ci ha riguardato, insomma, questa settimana, ed è ancora una volta la Brexit. Di Brexit abbiamo parlato tante volte, si avvicina questa data del 23 giugno in cui in Gran Bretagna i cittadini della Gran Bretagna saranno chiamati a dire se vogliono o no restare nell'Unione Europea, non nella zona euro, lo sappiamo, perché non hanno mai adottato l'euro i britannici, continuano ad avere la loro sterlina. Allora, in questo caso l'articolo è su Financial Times. Abbiamo citato nelle settimane scorse tanti allarmi della BBC, di vari ripresi di istituzioni, ripresi da vari quotidiani, anche lo stesso Financial Times, e avevamo anche sottolineato che forse, siccome questa spinta alla Brexit è soprattutto una spinta, diciamo, populista o comunque fomentata dai partiti più populisti, far fare i testimonial invece della permanenza all'interno dell'Unione Europea da quelle stesse istituzioni che nell'immaginario, così possiamo dire, nell'immaginario in parte dell'opinione pubblica britannica sono i responsabili dei grandi svantaggi che vengono al Regno Unito dall'appartenenza all'Unione Europea, forse non è proprio una buona idea. In ogni caso, Financial Times spiega che si susseguono gli allarmi del fronte pro Unione Europea in Gran Bretagna sui potenziali danni di questa Brexit che verrà decretata dal referendum del 23 giugno. L'ultimo, fra le contestazioni degli euroscettici, arriva dal Tesoro britannico. Secondo un'analisi, le pensioni del Regno Unito potrebbero perdere in media 137 sterline all'anno e in prospettiva fino a 1.900 in potere d'acquisto, se il distacco da Bruxelles si consumasse davvero. Colpa degli effetti negativi che il divorzio rischia di avere sull'inflazione, come si legge appunto in questo nuovo rapporto dei tecnici ministeriali, e il cancelliere dello scacchiere, che è questo strano nome che viene dato al ministro delle finanze nel Regno Unito, che poi è in perfetta sintonia, tanto che Financial Times lo definisce l'alter ego del premier britannico Cameron, non ha mai nascosto di essere un sostenitore della permanenza in Europa, però questo rapporto lui si è affrettato a rilanciarlo sostenendo che appunto i pensionati hanno diritto di sapere quale sia la posta in palio il 23 giugno. Da notare poi che all'interno del governo Cameron non c'è una posizione univoca su questo. L'ex ministro del lavoro e delle pensioni Ian Duncan Smith, che è uno dei ribelli, potremmo dire così, all'interno dei Tories, dei Conservatories, cioè del partito conservatore, ha detto che però queste sono stime aleatorie e che vengono strumentalizzate. Insomma, viene tutto strumentalizzato, e se vi suona familiare, ecco, consoliamoci col fatto che forse non siamo l'unico paese dove i politici, quando viene detto qualcosa che non gli piace, accusano chi l'ha detto di aver strumentalizzato qualche cosa. Vi segnalo invece su un'altra questione che forse ci siamo un po' persi per strada, che è quella famosa delle inchieste sulle centraline, ricorderete senz'altro le centraline cosiddette taroccate sulle emissioni. Pare che il Ministero dei Trasporti tedesco, lo scrive La Fazza, abbia inviato a Bruxelles e anche alle autorità italiane di omologazione delle auto i risultati delle misurazioni su un modello di auto Fiat, e pare che stia diventando un caso un po' politico, così almeno rilancia la FAZ, perché Fiat si è rifiutata di fornire la propria versione davanti a una commissione di indagine e ora i risultati delle misurazioni verranno allora spediti direttamente a Bruxelles senza che la Fiat possa in un certo senso dire la sua o difendersi, potremmo dire, ma forse l'intenzione della mossa della Fiat è proprio questa, di non difendersi da un'accusa che ha sempre rifiutato come falsa. Dalla Svizzera vengono altre, secondo me, cattive notizie sulle politiche contro l'immigrazione, perché la Neue Zürcher Zeitung starebbe un po' seguendo il trend di avere un maggior controllo alle frontiere. Questo è naturalmente forse influenzato anche da quello che sta succedendo in Austria, che sappiamo, non abbiamo ancora ben capito, perché ogni giorno sembra che qualcuno cambi idea, non sappiamo veramente se l'Austria abbia intenzione di costruire questa specie di muro alla frontiera del Brennero, quindi per evitare che dall'Italia passino troppi immigrati e entrino in Austria, quasi certamente poi diretti ancora altrove, però insomma il governo austriaco dichiara a giorni alterni di voler costruire questo muro per combattere l'immigrazione clandestina. Era l'ultima segnalazione per oggi, mancano ancora appunto più di 3 settimane al famoso referendum, ma vi terremo aggiornati. Ancora un buon sabato da Giulia Crivelli. Rassegna stampa Europa. In collaborazione con Euronet Plus.